Letture di Radio 24. In occasione dei saldi, la popolazione di New York può arrivare anche a 5 milioni. Ma fino a quale limite può spingersi la grande mela? È la domanda che il New York Times ha rivolto a un gruppo di esperti. Sulla carta, la popolazione di Manhattan sfiora il 1.600.000 abitanti, ma ogni giorno l'isola ne accoglie almeno altrettanti, pendolari o visitatori. E all'avvio dei saldi si arriva a 5 milioni. Le cifre, ricavate da un recente studio della New York University, hanno allarmato la stampa locale, che ha evocato gli scenari cinematografici di un collasso d'affollamento. Esiste un limite di capienza per l'isola più celebre del mondo? Il New York Times ha girato la domanda a un gruppo di esperti per sapere quante persone possono stare tutte insieme a Manhattan senza mandare in tilt i suoi meccanismi, dai trasporti allo smaltimento dei rifiuti. A giudicare dai censimenti del passato, si direbbe che la Grande Mela abbia visto di peggio. A inizio Novecento, per esempio, la popolazione residente superava i 2 milioni e la cifra è rimasta alta fino agli anni Ottanta, quando è scesa sotto il 1,5 milioni, con la grande espansione dei quartieri periferici. Tuttavia, c'è chi fa notare che nel secolo scorso le famiglie più povere vivevano a gruppi in appartamenti senza finestre, condizioni che nessuno accetterebbe oggi a New York, dove non si rinuncia nemmeno all'aria condizionata. E il rischio di un blackout epocale è sempre dietro l'angolo. Il tema del collasso resta attuale anche a seguito delle proiezioni demografiche ufficiali, che prevedono fino a 290.000 newyorkesi in più da qui al 2030, in parte dovute all'aumento dell'età media dei residenti. Mentre il sindaco Bloomberg investe in piste ciclabili e nuovi parchi, infatti, la Grande Mela si scopre anche amica dei nonni. Ha pensato alle famiglie un gruppo di ricercatori visionari della Columbia University, che a fine 2011 ha svelato il progetto di allungare l'isola verso sud, strappando alcuni chilometri quadri alle acque, utilizzando milioni di metri cubi di detriti ricavati dai fondali marini dei porti cittadini. Sulle mappe, i progettisti hanno battezzato il nuovo quartiere LOLO, che sta per Lower Lower Manhattan. Ci sarebbero scuole, uffici e aree verdi fino a inglobare la Governor Island. E non sarebbe la prima volta per Manhattan. Già il Battery Park City, sul fianco ovest dell'isola, sorge sui materiali ricavati a fine anni 60 dal cantiere del World Trade Center. Progettisti folli? Il coordinatore del progetto, Vishan Chakrabarty, è uno degli artefici della High Line, il parco sorto nel 2009 al posto di una ferrovia sopraelevata di oltre 2 chilometri, che ha dato nuova linfa ai quartieri che attraversa nel sud-ovest dell'isola. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gaetano Prisciantelli «Quanta gente può vivere nella Grande Mela senza mandarle in tilt?» dal venerdì di Repubblica del 23 marzo.